Terza parte di Rock Legends, come sempre Gianluca al microfono, e lo ricordo, stasera ospite la formazione veronese degli X. Con voi e con loro ascolteremo sei brani del CD Day, come il primo che è andato in onda, titolo Senza te. La vostra esperienza durante la registrazione e quali le idee musicali che hanno dato vita a questo CD, come sentite di aver lavorato questa volta? Allora, beh, idee musicali ce n'erano tantissime, perché comunque, appunto, data la lunga vita del gruppo, le varie incisioni che abbiamo fatto, quindi abbiamo comunque potuto fare una crescita che si è anche espressa con produzioni discografiche a livello demo, quindi questo era un po' un punto d'arrivo che poi per noi è anche un punto di partenza, perché finalmente abbiamo fatto un prodotto, diciamo, fatto come si deve, e dove abbiamo potuto mettere tutte le nuove idee che erano quelle proprio collegate a questa formazione, che fino adesso insomma è quella in cui ci troviamo meglio, insomma, dove tutti fanno la loro parte senza che nessuno dica, debba dire all'altro cosa fare, quindi l'optimum sicuramente. La prossima canzone per i nostri ascoltatori è Day, che poi è la canzone che dà il titolo al disco. In studio ancora con gli ex, capitolo recensioni musicali, quali le più lusinghiere e cosa dicono del vostro album, in particolar modo cosa è stato messo in rilievo? Allora, adesso ne sono uscite un po', perché chiaramente da quando esce il disco le recensioni, ci vuole un po' di tempo, arrivano a raffica. Esatto, hanno delle liste d'attesa lunghissime. Comunque abbiamo avuto qualche buonissima, anzi ottima si dice, recensione su internet, per esempio quella del Mucchio, che è altra Musical News, e un altro paio di siti, che comunque... E noi siamo abbastanza contenti perché riescono a vedere abbastanza quello che è la nostra idea di musica e l'idea che abbiamo messo nel disco, quindi ci hanno sempre dato abbastanza soddisfazione, vedendo anche le varie influenze che entrano nel disco e le cose che ci è piaciuto fare, quindi siamo molto soddisfatti. Prossima canzone. Prossima canzone, Verona 80, che è stata anche la canzone che ha fatto da apripista al disco, è uscita anche come singolo e probabilmente sarà la canzone del videoclip, ci stiamo pensando. Ah, bene. Torneremo a breve per la quarta parte di Rock Legends con gli ex, rimanete ancora su Radio RCS. Oggi ha sparato.